GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno e ancora buona domenica da Lara Zani. Oggi ricorre San Giusto, patrono della città di Trieste. In mattinata nella cattedrale il solenne pontificale celebrato dal vescovo Trevisi. A me piace, ha detto nell'omelia, una comunità cristiana che sull'esempio di San Giusto si spende coraggiosamente per le persone vulnerabili. Centinaia i fedeli che anche quest'anno hanno affollato le tre navate della cattedrale di Trieste sul colle di San Giusto per la ricorrenza del santo patrono della città. Un santo laico, ha voluto sottolineare il vescovo del capoluogo giuliano, Enrico Trevisi, che deve essere esempio ancora oggi per i cittadini. Un uomo che non viene ricordato come uno che si distingueva per le polemiche, ma come uno che viveva facendo del bene, ha detto il presule nell'omelia, laddove oggi, a Trieste come altrove, scivoliamo in riletture dove tutto è polemica e scontro, dove fatichiamo a convertirci a uno stile di confronto sereno e aperto. Trevisi ha voluto anche puntare il dito contro quella che anche il Papa ha chiamato la cultura dello scarto, una città in cui non c'è posto per i poveri, i nascituri, le persone fragili, i malati, i bambini, le donne, i giovani, i vecchi. Il potere diventa autoreferenziale, incapace di ascolto e di servizio alle persone. E Trevisi ha quindi invitato la città a tornare a impegnarsi quotidianamente nel sociale, nel vivere civile, appassionandosi al bene comune e passando dal parteggiare al partecipare, dal fare il tifo al dialogare. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le cerimonie commemorative del 106esimo anniversario della prima redenzione di Trieste all'Italia e dello sbarco dei bersaglieri, cominciate questa mattina con l'alza bandiera, continuano alle 16 con la partenza della staffetta tricolore formata da atleti della SD Gruppo Sportivo San Giacomo dalla Cattedrale di San Giusto, con arrivo alle 16.25 in Piazza Unità d'Italia, dove alle 16.30 avrà luogo la cerimonia di deposizione delle corone d'alloro con gli onori ai caduti. A seguire alle 17 a Maina bandiera solenne in Piazza Unità d'Italia alla presenza del gonfalone della città di Trieste e delle rappresentative delle associazioni combattentistiche ed arma. Gli onori sono stati resi dall'undicesimo reggimento bersaglieri di Orcenigo. Sempre nel pomeriggio il tradizionale concerto di San Giusto, protagonista la civica orchestra di Fiati Verdi alle 18 al Teatro Bobbio di Trieste. Il San Giusto d'Oro 2024 va a Enrico Summer, mentre la targa speciale del premio alla Rete Solidale Trieste. Lo ha deciso l'Asso Stampa Friuli Venezia Giulia, che organizza il premio. Uniamo, spiega Carlo Muscatello, presidente Asso Stampa regionale, la Trieste del lavoro, della crescita, dello sviluppo e la città della solidarietà, dell'accoglienza, dell'aiuto agli ultimi. Il premio Enrico Summer è il dovuto riconoscimento al lavoro di un grande professionista, di un'azienda e di una famiglia che rappresentano la parte migliore di una Trieste che vuole giocare il suo ruolo di primo piano sul palcoscenico europeo. La targa speciale alla Rete Solidale Trieste, aggiunge Muscatello, vuole accendere un riflettore sull'altra città, quella che si spende e si espone e non esita a sporcarsi le mani per aiutare gli ultimi, in questo caso i migranti che attraverso la rotta balcanica arrivano nel capoluogo. La cerimonia di consegna del premio e della targa si terrà nelle prossime settimane. A Tarcento un'azione vandalica sta causando un blackout informatico alle famiglie di via Plan di Paluz. Qualcuno ha segato un palo telefonico mettendo fuori uso appunto il servizio, che non potrà essere ripristinato in tempi brevissimi. Sul fatto indagano i carabinieri di Faedis. Atto vandalico fine a se stesso, un'azione mirata per isolare il borgo tarcentino di Plan di Paluz, una manciata di case dell'oltretorre. I fatti, due notti fa, verso le due, probabilmente utilizzando una flex, è stato abbattuto un palo in vetroresina della linea telefonica e della rete dati. I carabinieri di Faedis stanno valutando su queste due ipotesi. Una mezza dozzina di famiglie isolata, c'è chi ipotizza l'intento di voler neutralizzare i sistemi di allarme della zona, per poi colpire nelle case che in questo periodo sono disabitate. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza ciò che è rimasto del palo e i tecnici hanno promesso un pronto intervento, ma ci vorrà ancora qualche giorno. Il danno è oltremodo grave in quanto il borgo dipende dalla rete dati anche per alcune attività. I residenti non si capacitano, interrogandosi sul movente che a molti non pare il gesto isolato di un buon tempone. Tarcento, Plan di Paluz, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora uno sguardo al tempo, il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 16 gradi con vento da est-nord-est, Bora a 33 km orari con raffiche fino a 65 km orari, a Udine, Gorizia e Pordenone 17 gradi, a Tolmezzo 14, a Forni di Sopra 13, a Piancavallo 11 gradi, a Sappada e Tarvisio 9, sul Monte Zoncolano 11 gradi, sul Monte Lussari 7, a Lignano e Grado 17 gradi. Vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Cielo in prevalenza sereno sulla costa e sulle zone orientali, soffierà bora moderata in calo nel corso della giornata. Sul Tarvisiano e localmente anche sulle Prealpi Carniche sarà possibile cielo variabile o nuvoloso per la presenza di nubi basse e possibili nebbie a fondovalle. La cronaca: due persone sono state ricoverate in ospedale dopo essere state coinvolte in un incidente stradale fra due autovetture avvenuto questa mattina poco prima delle 10 a Corva di Azzano Decimo in via Boscata all'incrocio con via Vittorio Veneto. Una delle due auto è finita adagiata su un fianco contro un'abitazione e per liberare la persona all'interno è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Oggi è anche il giorno scelto dall'UNESCO per festeggiare la giornata mondiale delle riserve di biosfera. Anche Miramare e la costiera triestina fanno parte di questa rete mondiale, che ha l'obiettivo di perseguire a livello locale gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Proposta una passeggiata in uno degli ambienti che meglio raccontano il rapporto ancestrale tra l'uomo e la natura, la Landa Carsica. Siamo in uno dei pochi punti di Landa Carsica rimasta, siamo sulla piana di Montegrisa insieme a Marco Paparotte, che è guida naturalistica che collabora con il WWF, con l'area marina protetta di Miramare, e a lui chiediamo perché è importante il mantenimento della Landa Carsica e perché è così difficile. La Landa Carsica è un ambiente molto molto importante, ricco di biodiversità, che si è creato in secoli se non millenni di pascolamento, quindi l'uomo nell'antichità ha disboscato e ha portato gli animali al pascolo e questo ha selezionato delle specie molto interessanti e una vegetazione ricca di specie endemiche, di specie protette, e con l'abbandono del pascolo e delle attività umane questa Landa Carsica si sta incespugliando, perché naturalmente i cespugli e gli alberi occupano il territorio che prima era di specie erbacee. Perché è così difficile mantenerla? Perché serve appunto un'attività continua, non basta un intervento di decespugliamento, serve una cosa che sia mantenuta, perché altrimenti i cespugli tendono a sostituire naturalmente e costantemente la landa, quindi la parte di prato arido. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Sport: l'Udinese subisce la seconda sconfitta di fila, la Juventus vince 2-0 al Friuli dominando il primo tempo. È stata la peggiore Udinese vista in casa. Le parole del tecnico Rugnaic alla fine, sentiamo. Si può dire che non siamo ancora maturi anche per l'Europa? Un paio di giorni fa mi è stato chiesto se si può sognare dell'Europa. Beh, se si sogna troppo vi è il pericolo che non ci si svegli, ma noi dobbiamo svegliarci. Io so bene dove ci troviamo, la situazione in cui ci troviamo e cosa bisogna fare. Tutti i giocatori devono capirlo. Anche a Venezia avremmo potuto vincere 3-4-0 se fossimo stati abbastanza maturi, se avessimo saputo che non si può mollare neanche un centimetro, e oggi si può perdere una partita contro la Juventus anche se si inizia meglio la partita, ma io l'ho detto in maniera chiara dopo la partita nello spogliatoio ai miei giocatori: bisogna svegliarsi, non bisogna dimenticare l'ultima stagione dell'Udinese. Quasi ogni giorno lo dico, noi come squadra dobbiamo giocare tutti insieme indipendentemente dagli avversari, noi dobbiamo andare oltre i nostri limiti in ogni partita. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. La Triestina è chiamata invece a confermare i segnali di progresso delle ultime partite nella trasferta di oggi a Busto Arsizio, dove affronterà la Propatria. Infermeria quasi vuota, ma per gli alabardati si tratta della terza partita in 8 giorni, alle 17:30. Basket: in A1 Trieste, seconda in classifica dietro a Trento con Virtus Bologna, Olimpia Milano e Brescia, gioca oggi alle 17 in casa contro Varese. In A2 Udine alle 18 sarà ad Avellino. È tutto per questa edizione redatta da Lara Zani e Francesca Vigori, con la collaborazione tecnica di Federico Comare, Caterina Cabrelli, Laura Sarasini in redazione. Grazie per la cortese attenzione e ancora buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.